avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait. Siamo finalmente, come avevamo annunciato lungamente, ma nemmeno tanto, nella giusta maniera, al Lingotto e al Salone del Libro di Torino. Prima trasmissione di Melog, ne seguiranno millanta di tutta Radio 24. Come sempre accade, io sono più sfortunato di tutti, per quando inizio io non c'è nessuno, apriranno i cancelli del salone fra poco e il pubblico gremirà questo padiglione 2 da cui io sto trasmettendo. Al momento l'unica eroica persona che ha accettato l'invito di partecipare alla trasmissione è la gruppi messicana Maria Castaneda, che è venuta carica di tacos e di tequila. Andiamo al punto. Cosa facciamo quest'anno? L'anno scorso, ricordate, noi promettemmo e mantenemmo la promessa di far pubblicare alcune velleità letterarie dei nostri ascoltatori. Ci sottoponemmo alla durissima ordalia di dover sopportare le vostre fantasie, i vostri deliri, e alla fine ottenne qualcuno la pubblicazione in un fantastico volumetto di racconti melogmani, che poi, quando l'avrò sotto mano, ve ne darò più giusta e esatta indicazione, i racconti, i romanzi condensati di 4 ascoltatori. Quest'anno vorremmo fare una cosa più eterea, meno marketing orientata. Quest'anno, visto che c'era una sorta di concorso a premi o di inchiesta fatta dagli organizzatori del Salone Internazionale del Libro di Torino, decide quali fossero i 15 romanzi che avessero fatto l'Italia in questo 150enario della nostra storia, noi ne scegliemmo mestamente uno, perché secondo noi era quello che ci permetteva una deriva più consona alla nostra sensibilità rispetto all'idea del mondo che passa attraverso la letteratura. Fra i tanti che potevamo scegliere, scegliemmo Il barone rampante di Italo Calvino. E quindi già vi dico in anticipo quale sarà il cursus di queste 3 trasmissioni che faremo dal Salone del Libro. Ne faremo 2 la mattina e un'altra fantastica nella sera di venerdì, in cui non sarò soltanto. Ma non vi voglio anticipare nulla, voglio farvi sentire un velocissimo assaggio di quello di cui parleremo questa mattina. Ho già detto che sugli alberi noi trascorrevamo ore e ore, e non per motivi utilitari come fanno tanti ragazzi che ci salgono solo per cercare frutta o nidi d'uccelli, ma per il piacere di superare difficili bugne del tronco e inforcature e arrivare più in alto che si poteva e trovare bei posti dove fermarci a guardare il mondo laggiù, a fare scherzi e voci a chi passava sotto. Trovai quindi naturale che il primo pensiero di Cosimo a quell'ingiusto accanirsi contro di lui fosse stato d'arrampicarsi sull'elce, albero a noi familiare, e che protendendo i rami all'altezza delle finestre della sala imponeva il suo contegno sdegnoso e offeso alla vista di tutta la famiglia. La voce l'avete riconosciuta, è Barbara Alberti. Ve la farò ascoltare in queste 2 mattine, perché questa voce deve essere profetica del fantaporamma che faremo venerdì sera assieme, io e Barbara Alberti. Ci seguirà soltanto con la voce per 2 mattine, e poi venerdì sera dalle 21 alle 22 qui dal Salone del Libro faremo una fantastica trasmissione io assieme a Barbara Alberti. Il barone Cosimo Piovasco di Rondò passò la sua vita sugli alberi, perché una mattina, anzi all'ora del desinare, a mezzogiorno, perché la sua era una famiglia, siamo una famiglia ligure, nobile, ventennio prima della rivoluzione francese, ma già si sentiva nell'aria che qualcosa stava cambiando, sentiva che questa aristocrazia stava segnando comunque i suoi ultimi sussulti, si preparavano a capire, adattarsi a quello che sarebbe successo. Mangiavano a mezzogiorno, perché ancora non erano, si erano piegati all'usanza parigina di pranzare nel tardo pomeriggio. Il bambino Cosimo Piovasco di Rondò quel giorno non volle mangiare le lumache che i suoi gli proponevano, rinunciò, fece questo gesto di profonda ribellione a una consuetudine familiare. Lui con le quelle lumache che andavano in visibilio, la sorella, che era una sadica apparecchiatrice di lumache, le tagliava a pezzettini, le metteva sugli stecchini, costruiva delle fantastiche macabre composizioni con quelle lumache, lui non le voleva mangiare. si ribellò al piatto di lumache e salì su un albero, e da quel giorno non scese più dagli alberi. La storia del barone rampante è la storia di un ragazzo che poi diventa uomo, poi cura i suoi interessi, poi viene attraversato da tutti i moti della storia che accadevano appunto in quegli anni. Arrivò un giorno ad incontrare perfino Napoleone Bonaparte, sempre rimanendo sugli alberi. Il suo voto era quello di non scendere più per terra. Rimase in una dimensione parallela, fra cielo e terra, rampante sugli alberi, senza mai scendere a terra. E anche il suo estremo momento, quando alla fine divenne vecchio, gli issarono un letto in cima al suo albero e lui disse: ah, vedi, potevo pensarci prima. Ha vissuto tutta la vita sugli alberi, facendo una vita fantastica, avventurosa, perché erano i tempi in cui dall'Italia si poteva arrivare fino alla Spagna camminando sugli alberi. Questa è un'antica leggenda. Io ricordo che me la raccontarono degli amici sardi. Cioè, sai che una volta in Sardegna, prima che arrivassero i piemontesi e ci radessero al suolo tutte le foreste per fare le loro navi, la Sardegna poteva essere attraversata da mare a mare camminando soltanto sugli alberi. È bella questa idea che una volta il mondo fosse mettesse a disposizione una sorta di via intermedia di passaggio attraverso i luoghi, che era quella di camminare sugli alberi. Questa mattina non tanto vorrei parlare della storia di Cosimo Piovasco di Rondò, il ragazzo che divenne uomo e divenne vecchio e poi morì su un albero, e l'ultimo suo istante si aggrappò alla corda di una mongolfiera che passava, e lo videro allontanarsi verso il mare attaccato all'ancora di questa mongolfiera. Solo quando la mongolfiera atterrò nella riva opposta, lui non c'era più. Aveva mantenuto fino all'ultimo il suo impegno di non toccare più terra. Beh, quante volte voi siete saliti sugli alberi? Un esercizio che oggi accade di rado, che un ragazzo salga su un albero. Perché? Perché se uno va al giardinetti, ci sono già quei bellissimi parchetti attrezzati, con le scalette per salire, con le altalene, con gli scivoli, con le corde, tutto perfetto, tutto a dimensione di bambino, tutto asettico e tutto impossibilitato a farsi del male, perché per terra c'è un bel tappetino di gomma piuma, se il bambino cade non si fa male. Invece io ricordo la salita degli alberi come un momento eroico della mia fanciullezza. Bisognava stare attenti a quale albero si affrontasse. L'albero del fico non bisognava salirci, sapeva, perché il fico è traditore, ci dicevano i nostri nonni. Il fico è facile a spezzarsi, uno sale velocemente, sente sicuro, e poi si spezza il ramo e tracolla a terra. Salire sugli alberi di pino è molto bello, però c'è un rischio, ci si sporca di resina. La resina del pino faceva tornare a terra che si era completamente rovinati nel vestiario, e aveva le dita appiccicatici, ma si aveva un bel profumino addosso che durava tutta la giornata. Le migliori erano le querce. Le querce erano ottime per arrampicarsi, ma ogni tanto qualche pianta parassita che si attaccava al tronco della quercia ci graffiava e ci faceva sanguinare. Una volta saliti in cima agli alberi, affaticati, si vedeva il mondo dall'alto e passava la voglia di scendere, e si entrava nella ottica, nel pensiero del barone Cosimo Piovasco di Rondò. Quello che vi domando questa mattina, potete cominciare a rispondere chiamando all'800 24 0024, è: quanto avete pensato che sia possibile attraversare la vostra vita da una dimensione intermedia, che non è quella di chi ha i piedi per terra, non è quella di colui che sta da un'altra parte. Vivere, osservare, guardare, tenersi un recesso recondito dei propri pensieri stando in cima ad un albero. Cosimo salì fino alla forcella di un grosso ramo dove poteva stare comodo e si sedette lì a gambe penzoloni, a braccia incrociate con le mani sotto le ascelle, la testa insaccata sulle spalle, il tricorno calcato sulla fronte. Nostro padre si sporse dal davanzale. «Quando sarai stanco di star lì, cambierai idea!» gli gridò. «Non cambierò mai idea!» fece mio fratello dal ramo. «Ti farò vedere io appena scendi!» «E io non scenderò più!» e mantenne la parola. «800 24 0024, prendiamola semplice. Quando è l'ultima volta che ricordate di essere saliti su un albero? Poi vedremo cosa significherà per voi essere saliti su quell'albero. Su quale albero siete saliti? Avete dei figli? Siete felici, contenti, soddisfatti che loro salgano sugli alberi? Insegnate loro la tecnica di salita sull'albero? O lo considerate un esercizio non più adeguato ai tempi? Salire sull'albero è pericoloso. Perché? Perché gli alberi sono abitati da uccelli, gli alberi sono abitati da animali molesti. Cosimo era diventato un grande cacciatore. All'inizio della sua salita sugli alberi aveva imparato a vestirsi di pelliccia degli animali che cacciava stando sull'albero. Poi fece un sacco, una sorta di sacco a pelo, e dormiva appeso, e È bello vedere come un uomo del suo tempo, era un bambino molto compito, che aveva la parrucca impomatata, incipriata, con il codino quando andava a tavola, improvvisamente diventa un selvaggio, si irrozzisce, ma allo stesso tempo prevede e previene quello che è il tempo che verrà rispetto alla sua famiglia, che lui vede sempre dall'alto, vede il padre invecchiare, vede le sorelle sposarsi, a un certo punto dovrà occuparsi lui delle cose di casa sua, continuerà a occuparsi di tutto, perché è possibile comunque vivere una vita apparentemente normale, secondo i parametri di vita accettata e condivisa da tutti, pur rimanendo in questa dimensione intermedia. Piero Dorfles, buongiorno. Buongiorno. Piero Dorfles, a parte che è un mio grande amico, è un giornalista, è un critico letterario, tra i suoi libri ha scritto Ritorno del dinosauro, Una difesa della cultura, edizioni Garzanti, di cui parlammo l'anno scorso, che è un'analisi del mondo interpretato dalla televisione, del mondo letto dalla televisione, il riflesso tra televisione e mondo. Piero Dorfles, te quando è l'ultima volta che sei salito su un albero? Purtroppo è passato molto tempo, però ci sono salito tanto e devo anche aggiungere che quando è uscito Il Barone Rampante, e l'ho letto praticamente appena uscito, io avevo credo 11 anni, mi ha raccontato tutta la mia infanzia, perché non avevo fatto altro che salire sugli alberi fino allora, e quindi per me è stato come leggere la mia biografia. Era il 57 quando uscì Il Barone Rampante. E avevo 10 anni per l'appunto. Ecco, oggi noti che il termine stesso, fermiamoci al titolo, Barone Rampante, che per Calvino aveva un significato favoloso, immaginifico, il barone, quindi ciò che rappresentava l'antica aristocrazia, diventa rampante, sale sugli alberi, fa un gesto totalmente rivoluzionario, antitetico ad ogni etichetta, ad ogni regola, ad ogni blasone. Oggi sia il termine barone che il termine rampante hanno delle accezioni negative. Il barone è colui che esercita in maniera vessatoria e criminale un proprio potere, soprattutto nell'ambito dell'accademia, dell'università, pensa che è il luogo più sacro in cui in realtà il potere dovrebbe essere quello dell'intelletto. Il termine rampante è un termine che dà l'idea di subdolo, arrampichino, viscido. Noti com'è cambiata, che slittamento lessicale c'è stato rispetto a questo fantastico titolo. Slittamento lessicale del termine responsabile, secondo me questo fa parte di un modo di tentare di trasformare quello che una volta era una definizione precisa in qualcosa che si allontana dalla precisione ma allude a quello che è la base. In realtà rampante è la definizione che di solito si dà negli stemmi araldici di animali che si alzano e usano le zampe in su. Il barone rampante è un simbolo araldico praticamente, quindi Calvino ha trasformato il simbolo araldico in questo titolo formidabile che ha almeno due o tre accezioni diverse, appunto una quella di colui che si arrampica ma anche quello che sta agitando le mani, quindi domina il mondo, e contemporaneamente in fondo anche quello attuale, cioè qualcuno che sta scavando, che sta tracciando una strada per andare più in alto di dove è previsto che si stia. Sentiamo Letizia da Roma. Letizia, buongiorno. Sì, buongiorno. No, io volevo riportare una mia esperienza diretta, non simbolica, ma proprio realistica. Ma dietro ogni realismo si nasconde un'infinità di mondi, Letizia. Elementari, nella sua scuola c'erano degli alberi. Io mi sono permessa, tra virgolette, di acconsentire che lui salisse sugli alberi, proprio per quel discorso che stava facendo lei, del gusto di arrampicarsi, eccetera, eccetera. Perché fa parte, quindi, secondo me, Letizia, fa parte del cammino di scoperta del mondo di un ragazzo salire sugli alberi. Esatto. Normalmente allora, ragazzi, sia maschi che femmine, a un certo punto sentono il desiderio di scalare, di trascendere, di vedere il mondo da una dimensione diversa. Lei pensa che sono solo le ultime generazioni, le ultime due generazioni che provano l'ebbrezza e la visione del mondo vista dall'alto, che possono andare in un aereo, e chi oggi ha più di 50 anni il primo aereo se l'è preso probabilmente che era già grandicello, quindi l'unica visione che si aveva del mondo visto dall'alto era la possibilità di salire su un albero, e oggi non è possibile. Le altre madri redarguirono me perché dovevo stare attenta che mio figlio si potesse far male. Le bidelle, le custodie della scuola dissero: no, attenta, si rovina gli alberi. Ecco, volevo ricordare solo questo, la difficoltà anche reale di far salire sugli alberi questi pochi ragazzini di città contornati dal cemento. Quando trovi un albero non glielo puoi permettere. E quindi, l'ambientalismo anche... ma lei non mi sento, no? Scusi, quando parlo io. Prego. No, ecco, posso. uno per volta. Dicevo, l'ambientalismo esasperato che dà all'albero una dimensione quasi umana lo reputa leso e violato, se un ragazzino ci sale sopra e magari lo scorteccia un po', spezza qualche rametto. Non si saliva sugli alberi, ce lo dicevano, non si saliva sugli alberi da frutto quando erano gemmati, e non si saliva su certe piante che potevano essere rovinate, bisognava stare attenti agli innesti, c'erano delle regole reali. Oggi l'albero viene protetto a priori perché è qualcosa che merita attenzione, è giusto, è senz'altro vero, ma nemmeno il bambino può aggredire l'albero perché potrebbe farsi male, perché è pericoloso, perché deve vivere protetto. Francesco da Vicenza, buongiorno. Buongiorno, no niente, volevo dire che io ho 49 anni, ecco, dipende un po' dalla vita che è cambiata tanto. Cioè io da ragazzino, essendo cresciuto in campagna, per me l'albero era l'emblema, era il gioco, era il massimo, cioè cercavamo quelli più alti con gli altri ragazzini per raggiungere le cime, non so, li conoscevamo tutti. Adesso i ragazzi di oggi, ho un figlio di 17 anni, lui non, credo non sia mai salito su un albero, ma vive con i computer, vive con Facebook, vive con quelle robe là, quindi... Anche perché salire su un albero è un esercizio a seconda del tipo di albero, non tutti gli alberi hanno dei rami bassi. Quindi il primo passo che va fatto è la conquista del primo ramo, quello da cui ci si issa e poi si sale sopra. Molte volte su certi alberi, io ho citato ad esempio le querce, non è che la quercia abbia un ramo così basso che ci si arriva con le mani. Occorre saltare, occorre arrampicarsi giocando sulle imperfezioni del tronco. Quindi l'ascesa dell'albero è un'arte, è un esercizio, è una sorta di disciplina marziale. Se non si apprende da bambino, se non c'è un padre, un genitore che spiega metti il piede su quel ramo, non mettere il piede su... tutti i due piedi sul ramo, ma tieni il piede sul ramo, un piede su un altro, almeno se si spezza è sempre un punto di appiglio. C'è una tecnica ben precisa di salita sull'albero. Sonia da Reggio Emilia saliva sugli alberi da ragazzina. Sì, decisamente sì, un po' macchiato forse, non lo so, forse non è, ma io avevo la fortuna di avere... Le mie più care amiche sono delle arrampicatrici sugli alberi, non è un esercizio puramente maschile. Le ragazzine salgono sugli alberi. La prima grande occasione per guardare le mutande di una ragazzina è farla salire su un albero, questo lo sappiamo tutti. Io salivo nel giardino di casa dove c'erano gli alberi da frutto, non... però ho ancora una fotografia da grandicella, 14-15 anni, proprio arrampicata sull'albero e credo di non essere scesa da quegli alberi, cioè... Mentre lei parlava, no? Proprio il barone rampante intendo, ho avuto come la sensazione in effetti di aver poi vissuto una vita un pochino fuori, come dire, non fuori di testa, però insomma fuori dalla terra, un pochino, un po' aerea, un pochino sempre come una... Vede, lei è perfettamente in linea con quello che cerchiamo di capire assieme questa mattina. Chi fa e compie l'esercizio consapevole dell'arrampicata sull'albero e vede il mondo da una dimensione conquistata, non semplicemente perché monti su un aereo e ti portano in alto, può mantenere una vita piena di tutte le consuetudini accettabili, senza essere un ribelle, un anarchico, un uno additato come diverso dalla società, ma mantenere dentro di sé questa dimensione arborea interiore che ci permette di guardare il mondo dall'alto. E lei non è mai scesa dal suo albero, infatti. Enzo da Lecco, l'ultimo, poi mandiamolo a Lina alla borsa. Nicoletti, buongiorno. Sì. Io ricordo... L'albero più bello del mondo è l'albero delle ciliegie, è vero. Oh, sì, noi eravamo 5 amici e volevamo mangiare delle ciliegie, siamo andati su quest'albero e dai, e commentavamo dicendo fra di noi, pensa quando arriverà il padrone cosa dirà, e pensa cosa arriverà il momento, ha detto il padrone è qui, e era giù dall'albero. Ci ha tenuti lì 2 ore perché ci aspettava per picchiarci. Alla fine, Nicoletti, siamo scesi e qualcuno di noi qualche sberla l'ha presa, ma sberla così più che altro di ammaestramento. Esatto, sia questa cosa. Guardi, io l'ho vissuta dal punto di vista del possessore degli alberi. Avevamo degli alberi di ciliegia, avevamo un pochino di terra. E quindi il presidio dell'albero di ciliegia era uno dei nostri compiti da ragazzi, perché venivano i ragazzi delle campagne vicine a rubarci le ciliegie. E quindi da lontano, appena si vedeva muovere quelle foglie, si capiva che qualcuno era salito e si correva, perché la ciliegia non può essere colta molto prima della maturazione. E naturalmente è bellissimo salire su un albero di ciliegie, è bellissimo mangiare le ciliegie sull'albero, è bellissimo sputare i noccioli delle ciliegie per terra dopo che si sono mangiate. 800 24 00 24, diamo velocemente la linea alla borsa e continueremo a parlare delle nostre reali, ipotetiche, supposte o concrete salite sugli alberi. quand on s'est connu, quand on s'est reconnu. Pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé? Pourquoi se séparer? Melog 2.0. Cosimo guardava il mondo dall'alto. Ogni cosa, vista di lassù, era diversa. E questo era già un divertimento. Il viale aveva tutta un'altra prospettiva. E le aiole, le ortensie, le camelie, il tavolino di ferro per prendere il caffè in giardino. Mio fratello stava come di vedetta, guardava tutto. E tutto era come niente. È un po' quello che mi scrive un'ascoltatrice su Facebook, che non vorrebbe mai vedere il mondo visto dagli alberi, se c'è tutto uguale. Ma noi non dobbiamo considerare gli alberi come lo consideriamo oggi, un alberello sparuto, l'alberello del giardino, l'alberello del parco. Immaginiamo un mondo, un'epoca in cui la natura era abbastanza selvaggia, esasperata, e di alberi ce n'erano tanti. Come ho detto, dice Calvino nel suo libro, che diceva che al tempo una scimmia potesse arrivare fino alla Spagna camminando soltanto sugli alberi. Gli alberi c'erano tantissimi, non c'erano le autostrade, non c'era bisogno di costruire grandi periferie, non c'era bisogno di abbatterli, se non per costruire navi, per fare case, ma di alberi ce n'erano veramente tanti. Molte si lamentano e dicono: fate uscire Nicoletti dalla spelonca. Sento anch'io questo rumore di sottofondo, ma sto dentro il lingotto, che è un fanta gigantesco, non so bene come definirlo, cos'è, un capannone, una costruzione in cemento, dove dentro c'è la Fiera del Libro. Noi siamo al padiglione 2, è quello giallo, ma ci sono un'infinità di padiglioni, è pieno di libri, la gente sta arrivando adesso, quindi il rumore sentite sottofondo è l'ambiente. Io sto all'aperta, non sto dentro uno studio, sto semplicemente in un immenso spazio pieno di stand di libri, in un angolino noi facciamo la radio. Questa mattina abbiamo dedicato la trasmissione al barone rampante di Italo Calvino, domani parleremo del visconte di Mezzato e domani sera parleremo del cavaliere inesistente assieme a Barbara Alberti. Il cavaliere inesistente che vedrà Barbara Alberti, racconterà per voi, è quello che cercate, quello che non c'è, l'uomo che si mette una corazza e dentro non c'è assolutamente nulla. Questa mattina a parlare del barone rampante, di arrampicate sugli alberi, ho con me l'amico Piero Dorfles. Piero, sei ancora lì? Sono qui, sì, e vorrei anche aggiungere qualcosa, perché secondo me bisogna correggere almeno una delle cose che hai detto. Sugli alberi si impara a salire da soli, non è vero che c'è qualcuno che ti insegna dove mettere i piedi, è una cosa naturale, soprattutto quando si è bambini si è un po' come scimmie e ci si arrampica con estrema facilità. A me non ha insegnato nessuno e non ho fatto altro per tutti i primi anni della mia vita. Invece a me Piero insegnò mio padre a salire sugli alberi, eravamo piccoli e ci spiegava come si saliva. E io e mio figlio ho cercato di insegnarlo io, pensavo ci fosse bisogno di questa tradizione orale di arrampicata, ma solo all'inizio mi ha semplicemente indicato, noi viviamo in campagna, quindi sì, anch'io, era normale. La mia infanzia in campagna si saliva da soli. L'altra cosa che volevo dire è che sì, è vero che l'albero è una cosa in cui ci si allontana, si sta lontano da terra e quindi dà questa dimensione di visione diversa, però il fatto di salire sugli alberi da piccoli, ma lo stesso fa Cosimo, è anche un modo di trovare un piccolo spazio tutto per sé dove gli adulti non arrivano e quindi è la costruzione di una zona dell'individualità del bambino. Io credo che questa fosse la cosa che in fondo ci dava più gioia. Tu hai toccato il punto più doloroso e più emblematico, la famosa impossibile e proibitissima costruzione della capanna sull'albero. Infatti, ora lì veramente c'è il rischio che tu danneggi un po' l'albero, però anche semplicemente il fatto di trovare, come descrive Cosimo nel Barone Rampante, degli spazi, delle forcelle dove sedersi, portarsi i libri, portarsi da mangiare, sistemarsi, mettere un vecchio tappeto, questa è una cosa che tutti i bambini hanno fatto e lì improvvisamente tu costruisci la tua zona, la tua casa, il posto lontano dagli altri dove gli adulti non potranno mai arrivare perché non sanno più arrampicarsi sugli alberi e finalmente hai uno spazio tutto per te. Questa secondo me era la più grande scoperta. In fondo tutto il Barone Rampante è questo, è la storia di uno che da bambino decide di avere una casa tutta per sé dove non bisogna mangiare le lumache. Non dimentichiamo nemmeno il misterioso anfratto delle parti cave dell'albero dove si può nascondere tutto, si possono, certo, lasciare piccole scatolette, bigliettini, cose che si vanno a ritrovare dopo tantissimo tempo. La comunicazione che i miei figli hanno fatto finché erano in età inconsapevole con gli gnomi, che per ogni festa comandata si andava a mettere il bigliettino con la richiesta nel cavo dell'albero perché lo gnomo lo andasse a prendere. Non dimentichiamo che gli alberi sono animati e abitati da un'infinità di creature fantastiche che naturalmente non vede chi sta con i piedi per terra. Certo, poi c'è anche un fatto, diciamo così, più filosofico. Il fatto di stare sull'albero in qualche modo ti esime dal fatto di stare nel gruppo dei bambini e quindi è la prima occasione che hanno anche i bambini di avere una loro zona di pensiero, perché sull'albero si sta da soli, al massimo in due, però è molto difficile stare in tanti, no? Su un albero, si sta fondamentalmente da soli e quindi anche quello è un momento nel quale improvvisamente ci si crea un mondo nuovo, quello di chi sta da solo sull'albero, contempla quello che è intorno e pensa da solo, forse il primo momento in cui un bambino pensa da solo. Ecco, Calvino, adesso non voglio fare interpretazioni, non è il mio mestiere, non ne ho assolutamente le capacità, però vede questa zona dell'albero come una zona in cui si contamina il barone Cosimo con altre persone, altre classi sociali che non avrebbe mai avuto modo di conoscere con quella intimità. All'inizio la banda dei delinquentelli scavezzacollo, poi addirittura il brigante appassionato di libri, sì. Mai un barone avrebbe avuto contatti con loro così promiscui e così intensi. Ma forse il fascino del racconto che fa Calvino è che dentro la ribellione del barone Cosimo Trasgrendo c'è anche qualcosa che ha a che fare con il cambiamento di prospettiva della novità. A un certo punto sotto il suo albero passano addirittura le truppe napoleoniche, sta arrivando la novità. Lui sogna delle opere idrauliche, spiega come si devono organizzare le cose. Dall'alto, proprio perché è in alto, riesce non solo a guardare più lontano, ma a vedere il futuro meglio di quelli che stanno coi piedi per terra. Cominciamo a sentire qualche altro ascoltatore. Massimo dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno. Intanto buongiorno a tutti, buongiorno al dottor Nicoletti, è un piacere parlare con lei, è da sempre che l'ascolto. Io vorrei testimoniare il fatto che salgo quotidianamente sugli alberi. Lo faccio per lavoro, per passione, è diventato la mia vita. Che lavoro fa sugli alberi? Si occupa di... Io sono arboricoltore, mi occupo della cura di alberi d'alto fusto, arrampicandomi, quindi senza utilizzare mezzi meccanici, proprio come faceva il barone rampante, come ben sempre fatto anche... Non ha nessun marchingegno di salita, ramponi, corde, sale solo con le mani, corde, con i piedi? Corde. Solo con le corde. Questo sì, è una necessità di sicurezza per quanto riguarda il lavoro. Quando posso lo faccio per passione, ci salgo anche senza niente. Tuttora lo faccio, un bambino gli sto insegnando a salire sugli alberi. Ecco, dia qualche consiglio pratico di salita sull'albero, se possibile, come l'ho avuto io da piccolo. Bisogna, come si diceva, liberare la mente da quelle che sono, secondo me, le imposizioni della società moderna, dove tutto deve essere sicuro, dove appunto, come diceva lei, i bambini non possono più fare niente che possa essere causa di dolore. Bisogna lasciarsi andare all'istinto e sentire l'albero come un essere vivente. A quel punto è lui che ci dice dove mettere le mani, dove mettere i piedi. Ecco, lei ha detto una cosa profonda che mi ha risvegliato i ricordi. L'albero, secondo me, ama essere abbracciato da un essere umano. L'albero ti accoglie, l'albero ti presta immediatamente al tuo colpo d'occhio il ramo adatto su cui tu puoi appoggiare il piede, puoi appoggiare la mano. Ci sono momenti di panico e momenti di vertigine nella arrampicata sull'albero, momenti di paura quando uno ha perso il punto d'equilibrio e è attaccato semplicemente a un lembo di quell'albero e improvvisamente vede quel rametto, vede quella sporgenza e con la punta del dita la conquista, riacquista l'equilibrio, quindi l'albero che ti ha permesso di non farti del male. Grazie Massimo. Leonardo da Bologna. Dottore, Leonardo. Allora, io le volevo ricordare il film di Tarzan col mitico John Weissmuller. E noi in campagna dovevamo trovare qualcosa, se non c'erano le liane a Bologna. Certo, ci si mette alle corde. Noi salivamo anche in spregio della salute sui pioppi del Canada. Fino in cima. Il pioppo, scusi, è tutto tronco. A tutti i rami sottili ci si arrampicava fin sulla cima e ci si faceva dondolare dal vento, i più coraggiosi ovviamente, e si conquistava poi un grande rispetto quelle che lei chiamava le bande di figli di contadini quando si scendeva a terra. Emozioni che ancora adesso mi mettono i brividi. E l'albero è un altro di quegli alberi che bisogna stare attenti, perché il pioppo molto attenti, non è robustissimo, molto pericolosi, sì, sì. È un albero allora, traditore, come si diceva. È un albero traditore, però l'albero ti aiuta e ti abbraccia. È una cosa questa assolutamente vera che ho provato io, quindi è così. 800 24 0024, grazie Leonardo da Bologna. Devo lasciare lì le informazioni del traffico, ma vedo che abbiamo un pubblico di grandi arrampicatori sugli alberi. Queste sono le sintonie che scopro via via facendo la trasmissione con le persone che mi ascoltano. A tra poco. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Era un mandorlo tenero e non vasto. Vi si stava vicini. Ursula era ancora ansante e rossa per quel volo. Spaventata? No, ma le batteva il cuore. La rosa non si è persa, lui disse, e la toccò per aggiustarla. Così, stretti sull'albero, a ogni gesto si andavano abbracciando. Disse lei. Si baciarono. Così cominciò l'amore. Il ragazzo, felice e sbalordito, lei felice e non sorpresa affatto. Alle ragazze nulla accade a caso. Era l'amore tanto atteso da Cosimo, e adesso inaspettatamente giunto, e così bello da non capire come mai lo si potesse immaginare bello prima. E della sua bellezza la cosa più nuova era l'essere così semplice. E il ragazzo in quel momento pare che debba essere sempre così. E Cosimo trova l'amore sull'albero, fare l'amore sugli alberi. Guardate, nella fantasmagorica composizione delle alternative alla norma, nell'accoppiamento, oggi nessuno parla più, o nessuno parla, nessuno ha mai parlato, non so se esiste in letteratura un esempio di amore consumato sull'albero. Oggi l'amore nell'immaginario più banale, più burinesco, si consuma nell'acqua, nelle vasche idromassaggio. Ogni casa di coatto una grande vasca idromassaggio e tutti si danno di gomito, si fanno l'occhiolino. C'è questa discesa nelle acque intesa come l'elemento più propizio all'accoppiamento, alla passione e all'amore. Avete mai provato a pensare o immaginare di fare l'amore su un albero, arrampicati in cima, nella forcella più comoda di quell'albero, avvinghiati al tronco? Esiste qualcosa nelle fantastiche rappresentazioni filmiche, film Avatar, detestabile nella sua rappresentazione tridimensionale, in realtà è una storia di strani esseri alieni che vivono sugli alberi. Le popolazioni che vivono sugli alberi erano anche in tanti fumetti della mia fanciullezza. Gli uomini falco di Gordon vivevano, di Alex Raymond, vivevano sugli alberi. Parte di altri eroi salgono e scendono dagli alberi. Piero Dorfles, che è in ascolto e ci sta seguendo e che rappresenta un po' l'anima critica letteraria più coerente, più strutturata. Vedi che però, in fondo, evocando l'immaginario dell'arrampicata sull'albero, facendo un percorso abbastanza indiretto e tortuoso, si riscopre la letteratura. Ogni arrampicatore di albero si riporta alla memoria le sue arrampicate, o fanciullesche o anche adulte. In realtà si rende conto di aver vissuto momenti poetici. È un percorso, secondo te, coerente, esatto questo? Ma sì, anche perché questa grande allegoria della fuga sull'albero di Cosimo è in realtà un'allegoria tipica dei romanzi di formazione, è quella di chi passa dal momento in cui si ribella a quello in cui ama, al momento in cui progetta, al momento in cui filosofeggia, fino al momento in cui si avvicina alla morte e perde il rapporto diretto con le cose. Ma c'è una logica interna molto forte in questo libro e in quel racconto, che è in fondo la logica di tutta la nostra vita. Noi saliamo sugli alberi da piccoli, cerchiamo di trovare lì un nuovo spazio, ci costruiamo una personalità, un modo di essere, scaviamo quei nostri spazi personali che sulla terra non abbiamo, e da lì diventiamo adulti e poi da vecchi non sappiamo neanche più perché ci siamo saliti sugli alberi. Che poi quello che racconta Calvino, c'è un dialogo meraviglioso alla fine del libro, adesso non mi ricordo esattamente, cito a memoria, c'è la cacciata dell'esercito napoleonico, arrivano i cosacchi, c'è questo ufficiale cosacco che, stando sul suo cavallo, guarda Cosimo e dice: sono anni che faccio l'unica cosa che so fare bene, che è orrenda, la guerra, e non so neanche più perché la faccio. E Cosimo risponde: sì, anch'io sono anni che sto sugli alberi e non so neanch'io più perché lo faccio, però in compenso io ho fatto una cosa bellissima, ho vissuto tutta la vita sugli alberi. Matteo, buongiorno. Matteo, sì, da Bologna. Da Bologna, sì. Buongiorno. canzone, Nicoletti, lei il suo ospite e gli ascoltatori. Niente, io volevo riprendere un po' quello che il precedente ascoltatore aveva detto, quello dell'arboricoltore, perché effettivamente anch'io, occupandomi fortunatamente di questa attività, che posso quindi condividerla con lui, volevo riportare un po' la mia esperienza, che già fin da piccolo questo amore di arrampicarsi sugli alberi, che però era più così un atteggiamento di spavalderia, anche di far vedere agli altri che si riusciva a fare, mentre adesso, potendolo fare anche come lavoro, c'ho un approccio molto più effettivamente riflessivo, più intimo. Ogni volta che si tocca un ramo, che si appoggia un piede, che si stringe con la mano, cioè c'è questo contatto che ti isola completamente da quello che è tutto quello che è intorno. Allora senta, lei mi può rispondere a un mio rovello che ho sin da bambino. Dunque, io vedevo mio padre che in certe stagioni dell'anno tagliava i rami bassi degli alberi, soprattutto dei pini che stavano nel nostro giardino. E io soffrivo, perché quando erano tutti così belli stagliuzzati facevano pena, c'era solo un ciuffettino all'inizio e il tronco tutto ferito da questi grandi buchi, grandi segni dove c'erano i rami tagliati. Poi i rami si accatastavano, si mettevano da parte, certi se ne bruciavano, le frasche si bruciavano e via dicendo. E mi sembrava una grande violenza fatta all'albero. In realtà però era un'operazione che poteva sembrare brutta, come la tosatura della pecora, come la limatura delle unghie del cavallo. Era necessario, se no non salivano in altezza. Oggi quei pini sono altissimi, sono stati più alti della casa stessa. Ecco, lei mi ha provato questo senso di dispiacere nel tagliare, nel ferire un albero, nel tagliare un ramo che sembra che sta bene lì, invece va tagliato? Ma il dispiacere, quando si interviene su una cosa viva, che si tocca comunque un qualsiasi essere, sia vegetale o no, anche comunque vegetale. Perché certi alberi gemono, lei quando taglia il ramo di un pino esce subito la resina, come se fosse sangue, come se fosse l'umore vitale di quella pianta. Esatto, perché comunque... Vittorio da Roma. Sì, prego, poi devo finire, Matteo, non voglio interromperla. Allora, Vittorio, Matteo... Pronto? Sì, Vittorio. Buongiorno, mi volevo associare ai vostri racconti perché ho avuto un'infanzia un po' simile a quella del barone rampante, allora mi ritornava un po' alla memoria i miei pomeriggi passati nel giardino molto grande, avevamo da bambini di famiglia, dove anch'io per sfuggire alla mia tata mi rifugiavo su questi rami cercando di sfuggire, diciamo, agli occhi attenti di questa severa tedesca che ci voleva riportare all'ordine, allora... Era proprio un'abitudine di scappare su questi grossi tronchi di una magnolia che stava nel mezzo del giardino. E anche quando venivano degli ospiti, per esempio, così che non volevamo vedere, noi bambini scappavamo sull'albero. Quindi un po' molto simile al nostro barone rampante. E adesso su cosa si arrampica lei, Vittorio? Adesso non ci stanno cerco piano. Di seguire i miei figli che si arrampicano sempre sulle stesse magnolie, sperando che non si rompano l'osso del collo, quindi cerco di parare i colpi così, divertendomi anch'io in realtà. Beh, adesso lei è nel ruolo della tata tedesca, però se ne rende conto? Sono nel ruolo della tata tedesca, è molto più severa dell'au pair inglese che ho preso per i miei figli, che invece sono di queste qui tutte carine, che non hanno più quel senso dell'autorità che avevano le tate di una volta, per cui... Con il vantaggio però che non saliranno sugli alberi, i suoi figli potranno vivere tranquilli almeno in questa velocissima fase della loro vita. Ma guardi, la tranquillizzo subito che l'educazione che ho ricevuto io non è quella che do ai miei figli, perché erano tempi diversi e quindi il mondo, diciamo, era un po' più severo così nei confronti dei bambini. Oggi insomma è tutto un po' un compromesso, si cerca sempre di dargli un po' una indirizzata, però è tutto molto più vabbè soft, lei non ci riporti a terra, lasciamo che i bambini seguano le loro strade, salgano sui loro alberi, accontentiamoci o accontentatevi voi adulti che non salite sugli alberi, di rimanere con i piedi per terra. Grazie a Piero Dorfels, grazie agli ascoltatori, a domani con il Visconte di Mezzato. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.